Non, le départ était là, mais t'as vu les travaux qui font là. Je vais pas péter le chantier. Il faut trouver le passage pour aller sur la piste. Eh ben, Lilo, faut que je la passe. Lilo. Lilo, faut que je la passe. T'es pronte. Attention, vieux-tu. Ah, che brucia le nocche. Hola, hola. Becca la faccia di volte, tu, Pascasini. E beh, Manuel, buonasera. E beh, a tu, e cos'è? Tu c'è il riposo? Ciccio. Quanto sei bella Roma. Allora. E beh. Sì, appena finito di mangiare. Ho mangiato mezzo chilo di spaghetti. Come tu sono di spaghetti? Ehi. Io non bene. Io un bel, cosa vuoi che sia? Mezzo chilo di spaghetti, mezzo litro di vino bianco, ale e via andare. Una coscetta di pollo con patate. Mi abbrogio da voi. Sì, già sei con voi la malissima. Ancora, vedi, alle 9 e mezza c'è scuola a casa. Oggi si va, oggi si mette, sembra troppo reale, no, sembra mancato, come si? Troppo reale, è vicino al vicino al carcere, comunque, dietro al carcere. Ah, vedo tutto quello dell'Occentina io, in quella zona, ma la notte, ma la sono, del carcere. Sentire, dipende da dove guardi, dove sei. La notte, in quella zona, è capitato anche andare lì, come adesso, alla buca, di notte, e sono potuto fare l'uncettina. Se dalla cucca, dove, allora se tu vai alla cucca o vai verso la, non so se sei ci sei mandato, il al Parsifal, più giù dal Parsifal, ti trovi tutta la piazza, vedi tutta l'illuminazione della, dei calci. Ma infatti me ne sono accorto, e già sono andato a vedere di chi c'è. Ma io ho ballato, sono visto. E vabbè. Quindi io c'ho riposo. No, io ho lavorato. Con Mario ieri. Oggi sì. Ma dov'è? Oggi c'è la famiglia, io non ho chiuso delle cose con quel scotch da pacchi, con trasparente. Non riusciva a aprirlo, non riusciva. Ho fatto così, ma dammi la me. In 2 minuti gliel'ha aperta, c'è rimasto male. Ecco, vecchia, non mi sono buono. Chi è amante con la pernacchia? Cazzo di bastardi, mi hanno mandato 130 euro di luce scaduta. E come mai? Ma che sono dei farabutti? No, io ho pagato 23 euro di luce. 23 euro di luce? Sì, ma pure io l'altro giorno ho pagato molto contro me, ma non arrivi di un blocco. Quando potete uscire a pagare la spesa in furia? Ma non è che è arrivato il conguaglio? Cosa ne so? Cazzo, ma c'è per la luce a caramella un conguaglio di venire a e ho già di sopra una rosaccio altro e lei il soprenda burotto giappa a me è luce da rombarsi da faccio con guaglio ma io c'ho uno ma uno c'ho Mario Energia. C'ho quello lì, mi trovo abbastanza bene, ce l'ho già da un paio d'anni. Aio Energia? Sì, mi trovo benissimo. Aio, Gabriele! Mamma mia, che bizzino. Ma vedi, cazzo, come una che cosa. Cazzo, ne hai uno. E se ne hai avuto tre? Oh, yeah. Purtroppo, non me la femmina, no? Ma c'è un po' godo a tu. Va bene ora. Sì, adesso si trova per cazzo io. Va bene, la legge di so che fa scende. La legge? Cazzo lo vado a chiedere se lo fumo, eh? Cazzo, tu mi parli la legge, lo vado a chiedere se lo fumo. Così fumo. siamo vicini, cazzo, da cazzo capo, ma siamo a due bassi. Che comprendi, sono soldati bassi adesso. Ma vai già andare, prima eri troppo alta la purificazione. No, no, la verità, sono con la potenza bassa. Sono con la potenza bassa adesso, bassa proprio. Sta viaggiando piano, ora siamo tutto. Ebbè, come te? Questo è un po' nasina. E perché sta spingendo molto qua? Hai detto? Così va meglio. Abbascia, che cazzo me ne sei scendita lo smite? Così è. No, adesso è basso, sto portando. Adesso già va bene. Prima accendi il fumo e accendi. Troppo alto. E poi vai in saturazione e si comprende una mazza. Ma ora va bene, va passato. Ora sì, ora sì. Quando ho dato quella botta ero quasi a 200. La rubina non comprende nulla. Che cazzo è di saturazione? Lui non ha giocato oggi, tu, oggi brutto non ha giocato, cazzo, per carità. Capo, ma tu ne hai un'idea, ne hai, cosa capo, cosa escudendi, hanno un buon tutto volume, cosa ti sta entrando per il segnale? Mica una cosa impressionante. Già me ne immagino, c'hai picchi di cazzo 9.30, 9.40. Eccomi. Buonasera, chi è entrato? Niente, dai, ho finito e sto riprendendo. Chiappa, ok, ho in compagnia di Ma, come non mi viene Ma. Buonasera, buonasera. Ciao Manuel, e beh, il te se attende, a primagliare deve andare. Oggi sì, oggi e domani sì, mi tocca. Due giorni alla settimana ci tocca a tutti. Vabbè, cosa si vuole fare? Sarà vi. Festa la novina, la busa, abbigliano in luce. Si pagano e beh, continuiamo, se no si va abbigliano e di non tocca a Eva. Perché lo stanno pagando? Sì, però non pagano come devono pagare. Gli straordinari sono un po' carino in difficoltà tutti a pagarli e mi sa che è male di tutti. No, gli straordinari già li paga, sempre 3 qui dall'ora. Quanto? 5 euro ti danno all'ora, cosa vuoi ti toccare? A noi quando facevamo gli straordinari ci davano, prima non se ne pagava, davvero un buco di sindacati e ha cominciato a pagarci. E ci pagava lo straordinario 7 euro l'ora e in più ci dava la giornata libera. Quando facevamo le 8 ore ci dava anche la giornata libera. Ah, che sono la massa di video chiuso, aspetta che già li sistemo bene bene io. E faccio il culetto, biondo glielo faccio. Ma lui perché abbiamo messo i daccati, se no non li bagava ne manca a lui, Una massa di ladri, cazzo, hanno sedato a Garisi, per carità. E che sapeva? Purtroppo ne approfittano perché la gente ha bisogno di lavorare e ne approfittano, capito? Solo si fanno grassi, di grassi insomma, e gli altri fanno la fame. Ascolta, già, ti voglio chiedere una cosa, le lampade dei neon li vendono degli acquari? Certo che li vendono, devi prendere la misura e vai dove vendono animali e li prendi, ce l'ha anche, come si dice, vabbè già mi hai capito, quello caro, non mi viene il nome adesso. Acquazzo. Esatto, acquazzo, ce l'ha anche lui. Bisogna vedere se ha la misura, io, che misura c'hai tu? Ma se il cazzo non riesce a smontare, la giù prova da bucarne non riesce a bucarne. Come no? Come lo riesce a toglierlo? Ma non sarà, guarda che c'è anche il relì, quello magari si è bruciato, perché lo fa a volte, a me mi si è bruciato qualche volta. Mi sembra strano che si sono bruciati tutte e due lampade, tutte e due neon si sono bruciati, non funziona. Allora, tu li, quello starter che c'ha, no? C'ha lo starter, tu glielo pulli, e se accende senza quello lì vuol dire che è lo starter. Allora, il pulsante di accensione, io ho il pulsante che accendi per la pompa sta andando, però l'altro, il coso del relì, non so neanche dove cavolo è il relì, perché non si vede niente. No, la moglie è tutto quanto in vista, basta premere e girare, ed è a baionetta il mio. Cazzo da rimane, dice che ha sentito un moto, e non so piazzisi. E là c'è stato qualche corto sicuramente, qualche corto che l'ha bruciato, magari è entrata acqua e li ha bruciati, Io te ne so, perché nere non sono nere le lampade. Ah, poi vengono le lampade così, le applichi, tu vai là sui bicicletti e le applichi una di quelle a nera, a cosa, come si chiamano, a LED. Sì, ma poi il coperchio non si chiude se metto quelle stelle. Cosa? Se metto quelle a cosa, a LED, come stai dicendo tu, il coperchio poi non mi chiude. Quelle piccole metti. Ciao, dottore. Ma come resisti tu? Io esco sempre. Caspita. Metti quelle piccoline a LED, che già ci sono. Adesso vado un po'. Buonasera, Paolo. Guarda che allora sicuramente hanno uno starter, hanno i neon, però se tu li metti a LED uguale ci dovrebbe essere lo starter che sostituisce quello lì e te lo fa andare in diretta, capito? Però fino ad oggi il reattore bruciato, cosa è, che danni ha causato, capito? Senti su un dopo, secondo si è bruciato il reattore, cioè un colpo che è dentro. Non lo so, oggi devo da mullare, no? Ma riesce a mullare, fa bucare lui a parire. Ma gira, no? No, non gira, sono più dolci. Certo, forse prima correre una mazzetta ne devo. Cioè, li posso aumentare io, che forse ci riesco. Guarda che non gira al contrario invece. Certo, se ho provato a mullare, non la buona. Aspetta un attimo, prova per un secondo. E che i neon si tirano, non si mollano, si tirano, i miei sono in casa, non si girano né nulla, c'hanno due buchi, si infilano nei buchi e basta. Ah, il mio c'ha la rotella, ciao, già. E allora è diverso. No, il mio è facile, basta che tu centri il buco, lo entri dentro e funziona. Io ce li ho anche colorati, li ho trovati anche colorati, e costano un botto, costano, costano un casino di soldi. Ma lui non si preoccupa, già ce n'ha soldi. Manuele sì, Manuele è sempre vendente, fa il commerciante. Manuele, poi chiamami che c'ho una cosa che sto dando, se ti interessa. Sì, e così ti mando il messaggio delle lampade, dai. Eia, tanto sta caricando il telefono, dopo lo guardo. Gaba. Va bene, dai. Purtroppo quando succede così è un casino. È un bello casino. Ma ci sarà il metodo, Manuè, per tutto. Se si deve svitare, basta che tu li metti appena appena di CRC, lo lasci agire e poi lo svitti. E adesso vedo un po', perché magari cazzo paura, sai che cazzo mi si pacca la lampada in mano, che io ci sono pericolosi, so. E che ci guanti, scusa, un paio di guanti, non li hai? Però ce li ho qua, ce l'ho in macchina, adesso provo a mollarlo un po' a vedere se riesco. E magari si è ossidato all'interno, capito? Cioè, il coso dell'acqua li fa ossidare. Avanti, anche tu. Ma può darsi che sia... Guarda, deve un po' di svito mollare la prima. È strano, eh? Molto strano. E si è formato ossido all'interno, E tu pensa che quando sono andato a cambiare le rotte della macchina non riuscivano a toglierle. non riuscivano a togliere in nessuna maniera, purtroppo dalla mazzetta, dare i colpi di mazzetta alla ruota per uscirne, e c'era tutto l'ossido, si era ossidata, ci hanno messo tutto il grasso prima di rimetterle, hanno messo tutto il grasso. Ma Tosti cercava in ogni maniera di muovere, nulla, non si muoveva un millimetro. Perché sono in lega. E infatti ha fatto così. No, una mazzetta ha preso la ruota, le ha dato il colpo, piano piano, ti hanno uscita. Posso dall'alluminio, dall'alluminio. E allora Mano Lucio ha detto, e infatti Franco mi ha detto che secondo lui non solo i gatti o i cani che hanno pisciato e hanno fatto arrugginire tutto, capito? Col piscio, perché contiene ammoniaca, quello ci fa arrugginire tutto. E intanto oggi dovevano già bandischi e pastiglie che erano nuove, ma non frenavano perché erano ossidati, i dischi e non frenavano, non frenava più sul disco, capito? Erano arrugginiti proprio. Bello casino. Avanti Tore. Siamo a Matteggiore, i cani. Mi hanno dibiciato i rubi. Sono il padrone che sembrano arredire, si rabbaglia. La famiglia ci ha fatto un cantone. Ha sbeccato il rubi di il padrone. Mi ha fatto male. Ha battuto la baldana nel farlo bisciare. Un cane, no, che era la macchina mia. Ci ha ritirato il goccio buio, no. Io ho cominciato a pigliare la bozza, certo, se vuoi appicciare la macchina mia, attenanti. Niente ignorante, grazie, e dammi qua. Vabbè dai, io mi devo lasciare, non per fare da mangiare, ci sentiamo alla prossima. E cena tu, ci risentiamo. Briciola! C'è dato di sì! Ebbè, so, era al telefono, Mi ha dato. Cosa mi racconti di bello? Cosa vuoi che ti racconti? Cosa vuoi che ti racconti? Oh, yeah. Sta facendo freschino adesso, Adesso la sera fa freschino. Ma tu non mi prendi già se a tappando? Sì, vabbè, però se per umidità c'è la notte, anche se sei tappato senza le luci, Sì, certo, è che non usano. Hanno pigliato uno o due di freddo la notte. L'altra notte c'erano, cazzo, 7 gradi c'erano. 7 gradi, cazzo, la mattina c'era un calo che si crepava durante il giorno. Alla sera, è scesa questa temperatura, fatta quella da cancarassi. E quei giorni lì l'ha messo che scendeva la temperatura. Purtroppo è così. Sì, vediamo. Intanto mi metto la maglia quella termica sotto. Già c'ho i pantaloni felpati, quelli della divisa. Sì, ma ancora è presto, non è ancora da mettere una maglia ben fatta. Ehi, fai la luce, quindi. Che se me la pongo io, vuol dire che va fredda, che io il freddo guarda che lo sopporto. Io preferisco l'inverno che l'estate. Se me la metto io sotto perché c'è umidità. La notte c'è freddo, ma tu non me ne hai mandato di nulla, ho guardato su WhatsApp, su Messenger, non ho trovato nulla. Ma vale, aspetta un attimo. A chi l'hai mandata? A qualche di altro magari. Cazzo, disavorizzare non mi manco più nulla, Ma di picci ti non vedrai. No, ce li ho, ma cazzo, sta a perdere. Ma devo aver capito com'è, di quelli che hanno la ghiera da sbollare. Ascolta, ma nella centralina non ce l'hai il coso, lì? Non vedo nulla già, non lo so, io accendo dall'interruttore e basta, non si vede nulla. E dove c'è l'interruttore? interruttore, quella lì è il cervello, forse causa, è quello che comanda tutto, dove si attaccano tutte le spine. Poi non lo so se tu ho fatto diversamente, io ho praticamente la centralina dove si attaccano tutte le spine e attacchi tutto, tutti i motori, tutto quanto. Ma se no metterli, farò stare lì a guardare le lampade e tutto, a metterne un'altra a parte. Sì, vedono tutto, vedono ma ci vuole cervellino, ci vuole cervello per proprio la centralina, quella che comanda tutto, dove si attaccano tutte le spine. No, cazzo, con la spina, una spina a parte, capito? Sì, non puoi mettere, ma cioè, se c'è quello, perché devi stare a morire a sta roba? Se c'è quello lì, dovrebbe andare. Sì, dovrebbe andare, sì, ma se non lo so, vedi, cazzo, come rimane. Smontare bisogna provvedere, se no non vedi nulla. Ma che ti arrivato? Ascolta che... mi assento un attimo, qua, devo subito. Io sono qua. Stava facendo musica. Manuè, ma non ci disarrabbi, Tore, ci sei? Io sono qua. Oggi dai borragana, non ti sento molto arzillo, come mai? Sono tutta una digerente. Quindi, una è una bassa all'altra. E io se li vedi, commissione? Quasi. E beh, ti trovi bene con la nuova ragazza. Basta digerire. Cerco di sollevarmelo e non mandare, quindi no, non risolvo come tenermelo. Ascolta, ma tu lo metti quel liquido, quello che si mette, cioè blu, quello blu, che si mette quella macchina lì, si cerca di mettere questo liquido ogni volta che metto, prima metto anche questo liquido qua. Ehi, andiamo a di papà, si consuma da me, ma non ne consuma quasi nulla questa, non è tanto di coso. Io vedo che sta quando piace non ha aggiunto nulla ancora, invece che è ancora pieno. Ma come dice che per pulire i iniettori, vero? Sta di brutti chiama, ma mi schiaccia a mezzo cazzo per non inquinare. Come si chiama tu? Adi Blu. E Adi Blu, ecco. E quello lì dicono che per pulire gli iniettori. Io già. Dai, ci sentiamo che chiudo, che mi devo preparare tutto quanto. Ma lei comunque è facile, basta mollare quelle ghiere e poi fuoriescono i... Non ci vuole nulla, ma non mollano le ghiere, così è. Non mollano, adesso vediamo un po', adesso provo un attimo. Si molla, ma non sono sicuro se sono le lampade buone o è partito qualcos'altro. Quello lì è un inghippo, perché se poi non sono le lampade costano un po' le lampade, cambiarle se non sono loro sono spese in più. Chi su? Io mi ho portato prima, se trovavi il coso, quello lì, c'era quello, perché solitamente tu quello che parte, la lampada dura pittura, giurando. Hai capito là, come funziona? Siete sopra modulati. Altro fa da bravo. Ho detto che la Di Bru va messo, non c'è serbato giù a parte, va messo. Se la usi un po' la macchina ci vuole la Di Bru per 3 km, capito? È un bidone di goccia, mi pare 20 euro. Ah no, dove è il pulitore mio, c'è proprio la colonnina per metterlo. Alcuni ce l'hanno. Dove vado io a carica, c'è proprio il rifollitore all'interno, ce l'hanno, il magazzino c'è un rifollitore a parte. E tu ti avvicini con la macchina e ti rifollisco, l'ho visto io. E c'è quel rifollitore, questo qui è la Di Bru, mi ha detto. Sì, la Di Bru, è proprio la Di Bru. Addirittura alcuni ce l'hanno, alcuni invece hanno il bidone, devi comprare il bidone da 20 litri o da roba 10 litri, volevo dire. Ah, ho capito, dai. Non sono tutti che hanno la colonnina. No? Certo, meglio la colonnina, perché se c'è un camion da rifornire, cioè, chi mi vede di un bel. Perché anche nel camion si mette? Certo. Io ho visto un furgone rifornendo, un furgoncino tipo, ti posso dire, un furgoncino, come ti posso dire, un furgoncino piccolo, là. Come cacchio si chiama? Come la Renault Express e così lì. E ti manca chi su? Non parte più me, alcune macchine non partono più me, lo sai. Ah, così, c'è un sistema per farla partire, così. Se vuoi non ti dà più, va di merda la macchina. O no, addirittura certi buchetti non partono più, glielo devi mettere. Quando sei guarda a secco quello dei bonini. Io faccio pure che non me la gioco parata, perché c'è il Citro che ho visto. Cioè stavo prendendo una Citro di quelle Station Vego, bella. Però mi ha detto di questo sistema qua, un po' mi ha lasciato perplesso. E mi ha detto, ma questo qui pulisce gli iniettori e fa sì che non si intasi, non ho capito. E io lo so, ma è una cosa in più che devi muri sospesi in più. Lo facciamo con Viagra, Marco. E vabbè. Ero indeciso su quella lì o su quella che ho preso. Quella era bella, quella che ho visto. Era la Station Vego, bella, grande. Oh, ero un po' indeciso su questa storia. Quando mi ha detto la di blu, che cos'è questa di blu? Io non lo conoscevo nemmeno, la verità. Che motori diesel lo usano? Questi motori diesel lo usano? L'Euro 6. KK. Ah, benzina no? No, benzina no. Prima sai cosa si faceva? In un pieno di camion mettevi un litro e mezzo di benzina per pulire gli iniettori e tutto qua. Adesso c'è questa di blu, c'è. Però fa anche molti chilometri, mi fa. Se non la usi tantissimo ti dura. Non il furgone che durava poco, perché il furgone durava un bel. Quanti 400.000 radi? Quando fai chilometri consumi tutto, non solo quello. Consumi fascia, consumi tutto. Si usura tutto quanto. Avanti, Tore. Tu chilometri hai fatto lei con questa macchina nuova? Un pochettino ne ho fatto di chilometri. Cazzo. Mi è rimasta la breccia del gasolio ferma. Ah, c'è, ma c'è, ferma, c'è, si è bloccata. Ho solo due ghetti e più con 20 euro. Andelli. Se mano la tratti la macchina tutta cantaradina. Se avessi trattato da Zantaradino, se no non avessi bocciato roba. Ah, giù trattata, c'è che cazzo a me mare, ho già fatto roba di 400 chilometri in due ghetti. Ma non consuma molto il gasolio, la benzina sì, a gasolio che andava. Con la 6 che fa più, che durava una ghetta, mi durava 20 euro. Ma tu andi piano, non corri tu, andi piano. Il secondo la carriera che è a 131, delle volte mi ha fatto a 120. Sì, ma non andava a 160, no? Prima che non andava a Uda, con l'altra macchina ne faceva pure 170, 170, 180. Certo, la mano ha fatto una cazzata, vera lì c'ho rompendo mi da palle. Accelerata a bomba, basso al basso lo gatto per i vigili, ma non vai da domare. Ma io sono andato a buona giura, anda. Sì. Sabbiamo la giura. Sì. Tutto quanto. È tutta automatica, automatica è diverso. Si la tratti già consuma, si la tratti. Vuol dire che sì, questi 400 km l'hai fatti, ma molto contenuto la cosa. E Sì, ma li ho fatti in Cezzammi 400 chilometri, non è che l'ha giovato in Furano, l'ha giovato in Sedai. E girellone, Toro, che non ti chiedi, sta a casa, e girellone. Non lo gioco. E tanto, che fa due. Oia, tanto mi la vita una, se non ti lavori. E infatti, piano piano già anda. Dicono sopra è così, piano piano. Ed è lento molto. È sempre andando. Si andava a parte la porta asciutta là. Ehi, allora io vado, poi non ti meno quattro solo, va a pigliare le pastiglie, vai. Esatto, grido, ero fatto in lui, come certo, andiamo bene, andiamo, vabbè, dai, già, ci salutiamo, ci risentiamo alle prossime, ciao Anto, stammi bene, a risentirci, a presto, ciao, buona serata, ciao Anto, vai, a dopo, ciao ciao.